Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Un effetto collaterale inevitabile dell'enorme diffusione delle tecnologie informatiche e di rete è l'aumento dei rischi di attacco informatico. Non è una novità, ma spesso diciamo che la percezione di questo rischio è inferiore al pericolo reale che si corre. Lo dimostrano i 146 giorni che trascorrono in media a livello mondiale tra l'inizio di un attacco informatico a una organizzazione e la sua scoperta, che diventano, pensate un po', 469 tra i paesi dell'area che include Europa e Medio Oriente. Questo emerge dal rapporto annuale dedicato appunto agli attacchi informatici avanzati, curato da FireEye, un'azienda specializzata in sicurezza informatica che si occupa specificamente di questo tipo di minacce. Ne parliamo con Stefano Lamonato, che è sales engineer appunto di FireEye. Buonasera Lamonato. Buonasera Maurizio. Allora Lamonato, voi vi occupate specificamente di questi APT, cioè Advanced Persistent Threat. Ricordiamo intanto di che cosa si tratta e qual è la tipica escalation di questi attacchi. Advanced Persistent Threat si identifica un gruppo di attaccanti con delle capacità e delle conoscenze molto avanzate in grado di colpire in modo mirato e chirurgico un'azienda o un ente governativo con l'obiettivo di arrivare fino all'informazione di cui loro hanno realmente interesse e l'obiettivo di questi gruppi è anche quello di rimanere il più silenti possibili durante le fasi di attacco, quindi non farsi identificare. Come se fossero delle spie. Ecco, esatto, e in effetti anche il modus operandi è abbastanza simile. Ricordiamo qual è la tipica escalation appunto. La fase operativa passa per una compromissione iniziale che permette di stabilire una presenza all'interno dell'azienda. Una volta stabilita questa compromissione iniziale, l'attaccante inizierà tutta una serie di passi all'interno dell'azienda stessa, nascondendo le sue tracce e spostandosi in altri sistemi, con diciamo la capacità ogni volta di raccogliere sempre maggiori password, dati e informazioni. Certo, di scalare la gerarchia, potremmo dire così. Questo diventa a un certo punto il suo obiettivo, finché non acquisisce le autorizzazioni informatiche necessarie a fare quello che vuole. Che può essere distruggere, rubare dati. È importante proprio capire che in questa prima fase di compromissione iniziale c'è una persona che lavora su un'altra persona. Esatto. Non è un lanciare in generale delle esche e poi qualcuno a bocca. No, è uno studiare e creare azioni che possano invogliare l'utente a cliccare sull'allegato di una mail o sul link di una mail, perché quella mail è stata creata riferendosi esattamente a delle cose che la vittima conosce. Riconosce. Possono essere i nomi dei figli, possono essere sì. La scuola dove vanno guarda figli, il video dei tuoi bambini oggi lì, no, all'asilo, che hanno giocato con le bolle. Come abbiamo già visto in passato, può essere una persona, un finto studente che cerca un'approvazione sull'interpretazione di un articolo o di un report scritto da quel ricercatore. Benissimo. Ecco, nell'ultimo anno sono emersi degli elementi di novità, volevo capire, rispetto diciamo alla geografia delle vittime e agli obiettivi degli attaccanti. C'è qualche cambiamento rilevante? L'Italia rimane una nazione di interesse per quanto riguarda questi gruppi di attacco. Nel report che considera gli attacchi perpetrati in Europa, noi continuiamo a mantenere la quinta posizione, quindi siamo appena fuori dalla top 3. Ma forse meglio così, dai. Meglio così. Quali sono i settori più colpiti? I settori più colpiti in Italia ad oggi sono il government, i financial service e il mondo dell'energy utilities. Il mondo dell'energia. Ecco, proviamo rapidamente a ricordare quali sono le tecnologie, i trucchi diciamo più usati per questa fase di compromissione iniziale che, come abbiamo capito, è fondamentale. Il metodo più utilizzato dagli attaccanti è sicuramente l'utilizzo di spear phishing, quindi l'invio di una mail targettata e mirata. Nella maggior parte dei casi l'attaccante cerca di allegare a questa mail un oggetto che può essere un documento Word o Excel con all'interno delle macro. Una volta convinto l'utente ad eseguire questo tipo di contenuto, ci sarà una procedura automatizzata che tenterà di scaricare il vero e proprio malware, e in Italia i più utilizzati sono Extreme Rat, LV e Kaba. Ecco, un altro malware che è andato per la maggiore, diciamo, a quanto pare nell'ultimo anno, si chiama Dark Hotel. Secondo me è interessante raccontarlo come caso. Dark Hotel si tratta di un gruppo di threat actor che con le loro famiglie di malware sono stati identificati attivi fino a partire dal 2008. Sì. Si chiama Dark Hotel perché effettivamente sono degli attaccanti che si nascondono nelle reti informatiche degli hotel. Il loro obiettivo è quello di riuscire a identificare quando VIP piuttosto che executive aziendali si trovano in reti poco protette come quelle certo. degli hotel, per cercare di andare a colpire e compromettere queste postazioni e accedere ai dati appunto di queste figure. Va bene, grazie Stefano Lamonato. Grazie Maurizio e buonasera a tutti gli ascoltatori.